bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buona domenica, accomodatevi alla bufala in tavola perché l'appetito vi è mangiando, così dice il proverbio, e nella puntata di oggi facciamo sedere alla nostra tavola la saggezza e la scienza. Sì, perché in tempi non sospetti molti proverbi indicavano la strada, la combinazione di nutrienti da portare a tavola, di piatti. Bene, molte di queste indicazioni trovano oggi conferma dalla scienza o sono resmentite. Bene, oggi di proverbi parliamo, di saggezza popolare in cucina e a tavola, con tanti ospiti, ma soprattutto con il nostro ospite d'onore che è tornato a trovarci. Buongiorno al professor Lelio Morricone, responsabile del servizio di nutrizione clinica all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio di Milano, gruppo ospedaliero San Donato. Professore, eccoci buongiorno, qua. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Possiamo dire che la saggezza popolare ci ha visto lungo, perché in tempi non sospetti dava già delle indicazioni, dei suggerimenti che poi la ricerca ha dimostrato essere validi. Sì, certamente. Salutari, direi. Si può trarre da una serie di proverbi e, come appunto hai detto nell'introduzione, si può trarre spunto per ricollegarsi poi a fatti assolutamente reali che anche la scienza ha dimostrato, soprattutto quando parliamo, diciamo, di comportamenti alimentari o di scelte alimentari. Allora, vi invito a seguirci per tutta la puntata, ma soprattutto a scriverci sui nostri social, la pagina Facebook, Twitter e il mio Instagram, sono sempre a disposizione, il proverbio sul cibo, sulla dieta, sull'alimentazione che è più di casa vostra, che magari dite spesso o che seguite con particolare attenzione, del tipo si dice anche così: professore, tra l'altro l'appetito viene mangiando. Tutti certamente. Noi lo sappiamo per esperienza diretta. Dai, mangia questa cosina qua buona che diciamo, ti apre lo stomaco. Diciamo che confrontare, diciamo, l'evidenza di questo proverbio con i complessissimi elementi che regolano il rapporto di fame e sazietà dell'essere umano, quindi numerosissimi neuromediatori, è evidentemente esercizio impossibile. Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali un certo tipo di comportamento alimentare può o determinare un aumento dell'appetito o ridurre un appetito, e se l'appetito viene mangiando, certe volte questo deriva dal fatto che l'introduzione di alcuni alimenti può essere elemento stimolante per l'introduzione successiva di altri alimenti. Quindi è vero che ci possono essere incrementi, per esempio, della fame cominciando ad ingerire alcuni alimenti, perché questo scatena in tempi molto brevi delle reazioni mediate da alcuni mediatori, sia dell'apparato gastroenterico che dei mediatori centrali, che sono a loro volta in grado di regolare l'aumento dell'introito calorico, ma a un certo momento ovviamente l'arresto dell'introito calorico. E il guaio c'è quando poi questi meccanismi si alterano e quindi, per esempio, uno ha una cattiva percezione del segnale di sazietà e quindi continuerebbe a mangiare. Certo. Nasce l'alba su di me, mi lascio andare al tuo respiro e mi accompagno con i ritmi tuoi, ti sento in giro. Ma dove sei con tutte quelle essenze che ti dai? Non so chi sei, non su di me, sei sempre più lontano voglio il tuo profumo. Voglio il tuo profumo. Professore, a volte basta un profumo a farci venire l'acquolina in bocca. Certo, esiste infatti un rapporto molto preciso a livello di determinate aree del nostro cervello che mette in relazione ogni tipo di senso, compreso quindi l'olfatto, con riflessi che portano poi, per esempio, ad iniziare a mangiare, quindi a cominciare ad introitare delle sostanze. A lei che cosa fa venire l'acquolina in bocca? Una domanda che giro naturalmente anche ai nostri amici. Scriviamoci, seguiamoci anche sui social, ad esempio a me il profumo del soffritto. Beh, mi mette un'acquolina straordinaria. A me piace molto il profumo del pane mentre si sta cuocendo. Anche quello, della torta di mele. E quindi ho la fortuna che quella santa donna di mia moglie fa il pane e la focaccia in casa, e quindi quando c'è il pane nel forno o la focaccia nel forno si entra in cucina e devo dire che effettivamente siamo molto predisposti a sederci. Bisogna stare attenti a non fare poi esagerazioni fuori luogo. E noi ci sediamo volentieri, perché, come dice il proverbio, a tavola non si invecchia, professore. Anche questo proverbio può essere interpretato in modo positivo qualora si impari a scegliere quelli che sono gli alimenti che noi scegliamo di utilizzare come appunto nella nostra alimentazione quotidiana. Quindi è vero che a tavola non si può invecchiare se si sceglie un regime di alimentare adeguato e corretto. In questo caso infatti la ricerca dimostra che la saggezza popolare ci aveva preso, tanto che la ricerca è impegnata a individuare quali sono i nutrienti e gli alimenti che aiutano a preservare la nostra salute, promuovendo anche la longevità. Si parla di dieta della longevità, che a volte è una dieta che ci fa tirare un po' la cinghia, però, professore. Ma tirare la cinghia direi di no. Occorre avere ben presente che bisogna dare la priorità a determinati alimenti, per esempio agli alimenti di origine vegetale, che però a mio giudizio sono buonissimi, soprattutto se gli si dedica un po' di tempo per cucinarli in modo corretto, perché non certo che se noi scegliamo uno stile alimentare che vuole portare vantaggi alla nostra longevità, dobbiamo sempre pensare che è difficile che questo lo si possa trovare su uno scaffale del supermercato bello che pronto. Dobbiamo dedicare del tempo alla scelta degli alimenti, al loro confezionamento, al modo di conservarli. Dobbiamo tornare in cucina e, come dicono i saggi, una volta che siamo seduti a tavola, alzarci con un pochino di fame. Beh, però dipende dal pasto che stiamo consumando, perché come si dice, come dice il proverbio, colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. A tra poco. La bufala in tavola. Rientriamo con il boss per parlare di un re, o meglio, di un re a colazione che diventa principe a pranzo e diventa povero a cena. Bentornati alla tavola della bufala in tavola. Oggi insieme al professor Lelio Morricone abbiamo invitato la saggezza della tradizione popolare e la scienza, che conferma quanto i proverbi in tempo non sospetti, proverbi naturalmente sul cibo, sull'alimentazione, suggerivano. Professore, questo re a colazione che diventa principe a pranzo e poi povero a cena, che cosa ci racconta? Ci racconta da una parte che è assolutamente corretto frazionare il nostro fabbisogno calorico in più elementi, almeno tre, colazione, pranzo e cena, e dall'altra che occorre tuttavia che l'apporto calorico non sia equamente distribuito in queste tre fasi, in questi tre momenti, ma che debba essere meglio distribuito, diciamo così, con un certo grado di decalage. Quindi effettivamente mi piace, che eleganza, la cena dovrebbe essere un pochino più parca. Questo è una cosa che ha delle evidenze. Devo dire anche con assoluta sincerità che molto spesso si scontra con quelle che sono le esigenze della vita quotidiana, perché le persone che mangiano fuori per lavoro non è molto difficile che possano fare un pranzo ben articolato. E allora io dico, intanto questo proverbio dice che la colazione da re è elemento fondamentale. Questo vale per tutti e vale per tutte le fasce d'età, a maggior ragione nei bambini e negli adolescenti. Saltare la colazione è un gravissimo predisponente persino all'obesità. E poi la sera, comunque, dal momento in cui diciamo si sia quasi costretti a farla in modo un pochino più copioso, bisogna a maggior ragione compiere delle scelte qualitative che rendano quindi la cena, anche se diciamo abbondante, un pochino più abbondante, ma comunque digeribile, comunque che si possa conciliare con il sonno, quindi con l'addormentamento, che ci sia un timing preciso tra quando si mangia e quando si va a dormire, che quando si cena non si faccia nient'altro insieme, cioè non ci deve essere la televisione accesa o altre cose di questo genere. Un timing preciso. E quando noi parliamo di tempo, non possiamo non dare subito un colpo di telefono, come si dice, al nostro amico, il professor Roberto Manfredini, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno al brevissimo collega in linea. Direttore buongiorno. Della Clinica Medica Universitaria di Ferrara e autore di un libro che vi ho già consigliato, ma torno a consigliare. Si titola Un tempo per ogni cosa, PM Editore. Professor Manfredini, un detto, un proverbio che tutti noi conosciamo, che ha delle conferme scientifiche, ma che ha anche un'origine che molti di noi non conoscono. Io l'ho imparata da lei fuori onda. Professore. Beh, è vero, è una frase che usiamo spesso, che sentiamo spesso, in realtà Maimonides nel 1100, uno studioso a tutto tondo, quindi non solo un filosofo, non solo uno scienziato, una classica mente eclettica dell'epoca, andaluso, nell'epoca della dominazione araba in Andalusia, in particolare nato a Cordoba, aveva con questa semplice frase sancito alcuni punti che il collega in studio ha appena accennato. Per esempio, saltare la colazione è un errore gravissimo, specie per quello che riguarda le giovani generazioni, e la sera cercare di mantenere con una certa moderazione. Le ricerche recenti, anche così sul timing, quindi sugli argomenti legati alla cronobiologia, dicono inoltre che, in aggiunta a tutto quello che ha detto il professore, l'orario non dovrebbe essere molto giustamente bisogna dare tempo al sonno di avere tutte le sue funzioni durante la notte, che sono funzioni importantissime, e durante la notte la macchina uomo è ferma, quindi la melatonina abbassa il consumo come fossimo in stand by, e sono tutte altre le funzioni che di notte il cervello e l'organismo deve svolgere, pulizia, accumulo di immagini e quant'altro. Per cui è vero, non fare una cena esagerata, e se però si deve anche un po' così, perché giustamente dove tutti viviamo, che alla fine la sera o la cena è il momento sociale sia con gli amici che con la famiglia, fare in modo che non sia molto ritardata, perché massimo bisognerebbe andare a letto entro mezzanotte a prendere sonno per non andare in deprivazione di sonno, anche perché altrimenti durante la notte cortisolo, grelina, gli ormoni si modificano, per cui l'obesità e la sindrome metabolica, il rischio aumenta insomma. Professore, ricito il titolo del suo libro perché calza a pennello con la domanda che voglio farlo. Un tempo per ogni cosa, c'è un orario suggerito anche per i pasti. Ci sono altri dati che sono molto interessanti, che sono venuti dalla ricerca, dove si vede per esempio che lasciando un lungo spazio di digiuno notturno, si dice intorno alle 12 ore, poi c'è chi estremizza di più, ma gli studi anche molto belli sono sulle 12 ore, quindi mantenere una fascia di 12 ore fra la cena e la colazione, perché questa fase permette da una parte di lavorare i metaboliti e dall'altra all'organismo di settare sulle tutte le attività notturne sono ben diverse da quelle dell'uomo, che è un animale diurno. Quindi pare che si è visto sia nell'uomo che nei topolini che il fatto di mantenere questa fase di digiuno consente, a parità di calorie, di prendere meno peso e anche di avere una wellness, una sensazione fisica migliore. Quindi dall'ultimo boccone della cena al primo boccone della colazione dovrebbero passare 12 ore. Circa 12 ore, circa sarebbe 12... un buon consiglio. Sì. Ecco, aggiungerei anche che appunto... tutto ciò è finalizzato al dormire meglio, e dormire bene è un elemento fondamentale per prevenire l'obesità e la sindrome metabolica. Però, ecco, chi dorme non piglia pesci, e qua c'è un altro proverbio, ma vado e arrivo, ma chi non dorme prende peso. Questo l'ho aggiunto io, ma lo dice anche la ricerca. Sì, ci sono rapporti, ho modificato chiari. In corso un proverbio. Professor Morricone. Ci sono rapporti molto chiari tra la qualità del sonno, le malattie metaboliche e le malattie cardiovascolari. E quindi è evidente che, come è stato appena ricordato da Manfredini, che non solo la quantità, il timing e la qualità della cena possono influenzare direttamente la qualità del nostro sonno. Ci sono in ciò che noi mangiamo, ci possono essere precursori di sostanze che facilitano l'addormentamento, ma ci possono anche essere precursori di sostanze che rendono difficoltoso l'addormentamento. E quindi quando noi introduciamo, per esempio, dei precursori di sostanze eccitanti, come ad esempio? Beh, per esempio tutte quelle che vengono considerate le sostanze nervine, la caffeina, per esempio, la teina, ci sono alcuni formaggi fermentati che contengono dei precursori dell'istamina, quindi ci sono delle situazioni molto chiare che portano poi alla sintesi di neuromediatori che appunto possono sfavorire o favorire il sonno e l'addormentamento. Professor Manfredini, torno a lei, perché lei ci ha svelato che questo proverbio della colazione da re, pranzo da principe, cena da povero in realtà non è un detto popolare, ma è stato proprio inventato, creato da un filosofo, e i filosofi si sono dati da fare sul cibo. Pensiamo a Schopenhauer: la salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente, eh? Oppure a Feuerbach, che inventò il motto l'uomo è ciò che mangia. Anche in questo caso la ricerca cerca di dar ragione. Professor Manfredini, sì, senza parlare di Ippocrate, no, Ippocrate certo. L'ho risparmiato, ma aggiungerei anche un altro, siccome, come diceva il professore, il sonno è importantissimo e dobbiamo ricordare che non è mai una quantità di sonno, ma è la qualità. Quindi non importa il numero di ore totali, perché se sono ore intercise da pisolini o da risvegli, ecco che attiviamo una serie di ormoni, per cui francamente il rischio dell'obesità è proprio quello del non avere il sonno profondo. Ma anche l'illuminazione ambientale, sia interna alle case, quindi mai dormire col avere il televisore acceso, il computer o i tablet, ma anche l'illuminazione esterna, da studi recenti visti con fotografie dai satelliti, le zone più illuminate del mondo sono quelle dove c'è un maggiore tasso di insonnia e un maggiore tasso di obesità. Quindi attenzione anche a questo. Che quelle benedette lucine azzurre, eh? Certo, la cosiddetta luce blu, certo, sì, quella fredda blu che ha un vantaggio indiscusso rispetto al bulbo incandescente, ma ha questa possibilità di bloccare la melatonina in maniera dose dipendente, molto più prolungata. Ecco, io penso a una nostra ascoltatrice che sono certa dirà: ma adesso, insomma, cosa possiamo mangiare? Anche la luce ci ingrassa, qua oltre all'aria, anche la luce, professor Manfredini. Non è che la luce ingrassa, la luce fa dormire peggio. E quindi? E come abbiamo detto, il legame, un buon sonno è alla base anche per fare sì che quello che mangiamo e come lo mangiamo venga distribuito e utilizzato in maniera ottimale, altrimenti andiamo incontro appunto ad una serie di accumuli anche sgradevoli. Professore, vogliamo salutarci con un proverbio? Con una rima? Con un messaggio? Già detto il professore prima, attenzione a saltare la colazione, rischi che ti venga il pancione. Questo per i bambini, o per le mamme, per i bambini, credo sia sempre utile da consigliare. Ma non l'ha detto un filosofo importante. Assolutamente no. Però li facciamo, però, no? Certo, li produciamo anche però, noi oggi, anche con gli amici. Però Ippocrate, per tornare lì, visto che l'hai detto, ha detto fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo. Ecco, e che cosa stiamo dicendo noi ogni puntata della Bufala in Tavola. Professor Manfredini, grazie. Grazie anche per la rima, chissà mai che fra mille anni qualcuno la ricorderà. No, spero per questo, no. Con questo proverbio. Lo disse il medico Manfredini, autore di Un tempo per ogni cosa, cronobiologo. Professore, grazie, buona domenica. Grazie a voi e buona domenica. Io me ne sto qua col professor Morricone, perché tra poco altri proverbi, altri commenti, altri amici che sveleranno il legame tra saggezza e ricerca. A tra poco. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate, anche grazie alle vostre segnalazioni. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La bufala in tavola. Tutti a tavola, professor Morricone, sediamoci finalmente insieme, perché dopo la teoria la pratica. Bravo, perché se è vero che l'appetito viene mangiando, che a tavola non si invecchia, che c'è un tempo per ogni cosa, adesso è tempo di, come si dice, mettere le gambe sotto il tavolo e di apparecchiare. E quindi mettiamo a tavola il pane. È proprio un gesto quotidiano, no? Apparecchi la tavola, metti il pane in tavola e d'altronde si dice buono come il pane. Professore, sul pane direi i proverbi non mancano. Direi che innanzitutto la prima cosa che voglio fare è non demonizzare il pane, non demonizzare mai fonti di glucidi complessi, che invece devono essere presenti in ogni pasto. Naturalmente, quando parliamo di pane, dobbiamo possibilmente renderci conto che non tutto il pane è uguale, sì, che è diverso a seconda del tipo di farina che si impiega e che è certamente preferibile utilizzare farine poco raffinate, quindi partire dalla farina di tipo 0, di tipo 1, per andare fino alla farina di tipo 2, cioè utilizzare farine integrali. È molto importante il tipo di lievito che si utilizza. Ci sono lieviti industriali che non sono molto sani e lievito madre che invece è, come è noto, una cosa che aiuta ad avere una lievitazione molto graduale. Cioè, mentre i pani industriali purtroppo vedono trascorrere circa 4 ore dall'inizio dell'impasto a quando il pane viene sfornato, se noi facciamo un pane con farine non raffinate volte utilizziamo il lievito madre, è proprio il processo della lievitazione molto lenta che poi gli conferisce delle caratteristiche. E lei è fortunato perché il pane glielo fa la sua moglie, ma ci sono tipi di pane in tutta l'Italia meravigliosi, perché ogni regione, direi ogni paese ha un po' la sua specialità. Questo può essere anche un'occasione, no, per imparare a conoscere più da vicino il territorio. Ci sono, no, forme piccole o forme grandi? Fa la differenza? No, non fa una grande differenza. Tostato è più digeribile, è vero? Oppure è una bufala? Dipende. Si salta dai proverbi alle bufale, ma è vero? Sì, che dipende un po' anche, come ripeto, dal prodotto di origine, perché quando poi uno pensa a tostato pensa al pan carré, e il pan carré industriale non è certo di grande qualità, insomma. Parliamo quindi di un pane preferibilmente integrale, a lievitazione naturale, giusto, con lievito madre. Aggiungo anche possibilmente senza una grande quantità di sale, perché purtroppo il sale è molto presente nei prodotti da forno, e tenete conto che i prodotti da forno che noi troviamo comunemente nelle panetterie, anche se fatti bene, spesso contengono più di 2 grammi di sale. Però per 100. Adesso c'è stato un impegno a ridurre. Ci deve essere un impegno a ridurre, perché comunque i prodotti da forno sono appunto uno dei maggiori strumenti attraverso i quali noi introduciamo sale un po' occulto, non è che ce ne accorgiamo tanto, certo, con l'eccezione del pane toscano, no? Sciapo. Esattamente. Professore, parliamo anche di quantità. Una michetta, come dicono qua a Milano? Il fabbisogno. Una biova, come dicono a Torino. Diciamo che il fabbisogno calorico di un individuo è evidentemente assai variabile, ma in linea di massima io credo che quando noi, in un soggetto normale che non deve curare patologie e che non abbia particolari problemi di peso corporeo, si decide una razione di pane, questo può andare tra i 50 e i 100 grammi. Ma se mangio anche la pasta, lo devo ridurre? Devo fare delle scelte, perché è passata anche un po' questa indicazione: se mangi la pasta, non mangiare il pane. Questa è la vecchia regola delle 3P, in cui o pane o pasta o patate, una P per ogni pasto. È una regola che può essere molto utile quando ci sia da correggere, per esempio, uno stato di sovrappeso. Vede, anche d'accordo Filippo Aureggi, che io non so quante P metta in un pasto, non importa, mette. Devo dire che un soggetto normopeso, soprattutto se fa esercizio fisico, se fa attività fisica, addirittura uno sportivo, non dimentichiamoci mai che i glucidi sono il principale carburante per i glucidi, che sono poi i carboidrati complessi, che sono tutt'altra cosa rispetto allo zucchero, e quindi un soggetto che fa attività fisica e che abbia una vita attiva non deve ritenersi del tutto precluso il fatto che in un pasto ci sia sia un po' di pasta che un po' di pane, sempre con porzioni ragionevoli. E a proposito di pane, professore, con i primi freddi arrivano i primi piatti caldi, e se non è zuppa è pan bagnato. E questo proverbio ci dà l'occasione per inserire all'interno delle nostre corrette scelte alimentari equilibrate la zuppa, che è di fatto un ottimo sistema per mettere insieme fibra, quindi una cosa che fa benissimo al corpo umano, per veicolare al nostro corpo verdure in vario modo, per esempio anche magari nei piccoli, nei bambini, negli adolescenti che mangiano malvolentieri la verdura, può essere un sistema per rendere la verdura, per veicolare la verdura in modo un pochino più appetibile. E spesso all'interno della zuppa c'è per esempio del pane secco, dei crostini, che quindi aumentano un po' la quota glucidica, e magari se ci sono dei legumi ci aggiungiamo anche una fonte proteica di ottima qualità, cioè proteine di qualità che non necessariamente devono per forza essere carne, che invece sappiamo benissimo è meglio consumare con moderazione. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Professore, legumi, lei mi ricordo che mi aveva dato una ricettina di una zuppa. Magnifica, con il cavolo nero e il cannellino. Bravo. Sì. Sì. Ripetita. È una zuppa molto, molto. Questa la fa lei, senza nulla togliere a sua moglie. Basta mondare bene le foglie del cavolo nero portandogli via la costa. È vero che ha molta vitamina C? Sì, è vero. Se lo si fa stufare con un pochino di cipolla, poi si aggiungono i fagioli, i cannellini e piano piano si fa cuocere tutto in modo che si insaporisca. Naturalmente in base al gusto la possiamo lasciare un pochino più liquida o un pochino più densa e spesso si serve, guarda caso, con una fetta di pane integrale all'interno del piatto che la contiene, proprio per dare una fonte glucidica di complemento. I cannellini posso utilizzare anche quelli in scatola o surgelati? Sì. Possono usare quelli in scatola, la raccomandazione quando si usano i legumi in scatola è di sciacquarli bene per togliere il sale. Le sappiamo tutte. Professore, legumi, importante inserirli correttamente nel nostro menù settimanale, in alternativa anche a piatti. In alternativa alla carne, alla perché carne. I legumi sono una fonte proteica, quindi sono un secondo piatto. Sono la carne dei poveri, certo, questa non sono una leggenda. Sono un secondo piatto. 2, 3, 4 volte alla settimana nei 14 pasti che abbiamo a disposizione, in quanti pasti possiamo? Almeno 3 pasti con i legumi sarebbe decisamente raccomandabile, così come pure è raccomandabile che almeno 3 pasti siano, se non 4, siano a base di pesce. A questo punto, professore, cosa manca? Un po' di formaggio. Certo, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ma c'è anche un altro detto sul formaggio che sì, lei c'è sa. C'è un detto lombardo che dice la bucca le minga stracca se la sanò de vacca, ma questo proverbio per la verità io lo definirei un proverbio ipercolesterolemizzante. E quindi non si può sdoganare, al di là del fatto che sia buonissimo e che anche nella nostra regione ci siano produzioni di formaggi di assoluta qualità ed eccellenza, bisogna tuttavia considerare sempre che il formaggio per definizione ha almeno il 40% di parte grassa sul secco. Lo consideriamo come un secondo. Lo consideriamo come un secondo come un fine pasto da usare con moderazione, così come pure diciamo che anche le uova, che sono elemento molto prezioso nel nostro menù settimanale, devono essere consumate una volta sola. Professore, ma questo abbinamento con le pere è solo un abbinamento che appaga il gusto o ci potrebbe essere anche un senso? Il senso c'è di sicuro, perché se noi aggiungiamo la pera o comunque diciamo un elemento di origine vegetale, non facciamo nient'altro che associare ad un alimento che non ne ha una quantità più o meno accettabile di fibra. Quindi, e ogni volta che noi aggiungiamo la fibra a quello che noi mangiamo, i processi digestivi e metabolici ne traggono sicuramente dei grandi vantaggi. Quindi possiamo dire che il proverbio suggerisce un abbinamento che non solo è buono ma è anche equilibrato. Vi è un assoluto razionale. E a proposito di pere, didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Non so perché Filippo Aureggi sorride, perché era dei tuoi tempi e vorresti invitarci a un ballo, ma non si può, ogni cosa al suo tempo. Adesso non è tempo di ballare, è tempo di dare il benvenuto alla professoressa Adriana Albini, professore di patologia generale all'Università Milano Bicocca e responsabile del laboratorio multimedica. Buongiorno professoressa Albini. Ah, buongiorno. Grazie per essere con noi. Ha sentito con che brano la introduco? La introduco con il tempo delle mele. Abbiamo sottolineato quanto sia importante il tempo, il timing, come dite voi anche nell'assunzione dei pasti, ma noi vogliamo parlare di mele in questa puntata tutta dedicata ai proverbi. Professoressa Albini, non potevamo ricordare che una mela al giorno toglie il medico di torno. Giusto. Allora, noi medici, dei medici ne abbiamo bisogno, anche perché intervengono a Obiettivo Salute, alla Bufala in Tavola, ma li vogliamo vicini per tenerli lontani. Anche loro sono da consumare con moderazione. Bravo, dice il professore. Professore Salvini, che cos'ha di interessante la mela per aver meritato questo proverbio? Allora, la mela è uno dei miei frutti preferiti, quindi ne parlo volentieri. Intanto è un frutto relativamente poco calorico, non è tanto dolce, sono una cinquantina di calorie per 100 grammi, quindi si può consumare abbastanza liberamente. Contiene tanti principi attivi, quindi intanto le fibre che sono comuni a molte frutte e verdura, poi ha un polifenolo che si chiama quercetina, che è presente anche in altri diciamo elementi vegetali, che ha degli effetti antiossidanti, antinfiammatori, quindi molto valida. Più acido malico, acido tannico, minerali e quindi soprattutto poi molti polifenoli diversi che sono questi farmaci che fanno un po' bene a tutto. Insomma, si capisce perché Eva non ha resistito, diciamola così, e forse ha fatto bene, o insomma non così male. Ci fermiamo, professore Salvini, tra poco riprendiamo mela e non solo. Salve a tutti, da Massimo De Donato vi aspetto ogni sabato alle 22 a Strade e Motori, lo spazio di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Cercheremo di capire come sta cambiando questo mondo, quali automobili vedremo sulle strade nei prossimi mesi, qual è il futuro delle motorizzazioni tradizionali e come l'auto elettrica cambierà le abitudini degli italiani. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, sul sito di Radio 24, nella sezione auto, video, clip, i test su strada, le immagini e le schede dei nuovi veicoli provati. Strade e Motori, ogni sabato alle 22 su Radio 24. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. La bufala in tavola. Veloci veloci, siamo tornati. In linea con noi la professoressa Adriana Albini, professore di patologia generale all'Università Milano Bicocca e responsabile del laboratorio multimedica. In studio il professor Lelio Morricone. Stiamo parlando di mele. Professore Salvini, e parlo al plurale perché ci sono tante varietà di mele. Sì, si fa presto a dire mela. Cioè, ci sono tante persone, ci sono tante mele. Allora, i biochimici hanno studiato tante mele diverse per vedere quali proprietà salutari hanno, in particolare la ricchezza di questi polifenoli, che sono un po' delle molecole del miracolo. E per esempio è molto quotata la mela anurca, che è una mela che viene molto studiata in Italia, è ricchissima di polifenoli, mentre invece la Fuji è un po' più povera. Poi noi abbiamo la mela ranetta, per esempio, che è molto, molto buona, molto utile, sono delle mele certificate, si sentono un po' acidule, hanno anche molte vitamine. Quindi una delle ricerche più interessanti all'interno della frutta, diciamo, buona, è quello di anche distinguere delle qualità che sono magari più preziose per la nostra salute, che tolgono più medici di torno. Quindi anche variare, professore, quando si parla di varietà, mangio la mela, ma non sempre la stessa mela. Beh, potrebbe essere in generale, già un'indicazione. In generale variare fa sempre un bene. Principio molto corretto quando si parla di alimentazione. Adesso, negli ultimi anni, noi ci possiamo avvalere di studi scientifici molto seri che appunto consentono poi via via di portare nella pratica queste indicazioni e quindi di suggerire il consumo qui stiamo parlando di mela, ma questo può valere per altri tipi di alimenti, il consumo di determinati alimenti che nello stesso contesto nutrizionale siano però per esempio più ricchi proprio di queste sostanze particolari, di antiossidanti, certo, di alcuni oligoelementi che sono senz'altro utili. Professoressa Albini, è la mela che si è meritata il proverbio, ma quale altro frutto potrebbe giocarsela? Io sarei ispirata dai frutti di bosco, particolarmente quelli blu e rossi, perché sono ricchi di antocianine, che sono dei pigmenti antiossidanti anche loro. Quindi si potrebbero proporre, per esempio, frutto di bosco, dottore, non ti conosco. Ti va bene? Mi piace. Il problema è che la mela è molto dura a lungo, è presente anche nei mercati, la troviamo come a dire che quando uno poi c'è è premiato in qualche modo, è più premiato, ma il frutto di bosco mi piace molto questo proverbio, anche perché sono molto buoni. Sono molto buoni, sono, diciamo, si possono raccogliere freschi, quindi quando uno fa una gita magari, e si possono anche conservare, si possono anche ricongelare, quindi. E poi sono anche una grande fautrice dell'uva, che per un po' è stata messa in disparte perché è dolce, no? Però è disintossicante, addirittura uno se può farsi, non lo so, una specie di serata o giornata uva, perché ha delle proprietà interessanti. Poi sai, per esempio, anche sulle bucce, non so, bisogna lavarla, però dell'uva rossa ci sono dei composti come il resveratrolo, che sono degli antibiotici che difendono l'uva dagli attacchi esterni, però possono essere molto utili anche per noi. E io vorrei aggiungere, agganciandomi a questo, che sono assolutamente d'accordo, bisogna un po' smitizzare il fatto che siccome ci sono dei frutti che sono molto zuccherini, allora non bisogna mangiarli. A me la piace differenza molto calorica, il caco, ad esempio, è assolutamente trascurabile. E quindi se una persona abitualmente consuma l'uva o il caco o la banana, non si fa certo del male. No, assolutamente. Professoressa Albini, la ringrazio per essere stato con noi. Consigli per chi sta in cucina o si metterà a cucinare, magari come spesso succede la domenica sera, oltre che il pranzo della domenica, è un'occasione per ritrovare la famiglia, invitare gli amici, perché così in qualche modo si mette via qualcosa per la settimana. Bravo, no? Sì, cucina, ma come a dire, si cucina qualcosa. Ma ancora un proverbio per chiudere a proposito di cucina: ad ogni pentola il suo coperchio. E per commentare questo proverbio abbiamo invitato un amico, Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto in nutrizione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Giorgio. Intanto il diavolo fa le pentole, professore. Donegani, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, ma ma ad ogni pentola ha il suo coperchio. Infatti, ecco. Perché dipende un po', insomma, il coperchio è utile in alcuni casi invece proprio non è il caso di usarlo. Ovviamente quando non lo si deve usare, se noi dobbiamo controllare molto da vicino l'evolversi della cottura, dobbiamo mescolare come per fare un risotto, in questo caso è automatico che il coperchio dà solo fastidio. Però quando noi mettiamo il coperchio su una pentola, sostanzialmente che cosa succede? Succede che all'interno della pentola si crea un ambiente particolare in cui aumenta un po' la pressione e anche la temperatura, perché non si disperde il calore all'esterno. E poi si condensa il vapore che eventualmente si sviluppa ricadendo sul cibo. Allora, a seconda del tipo di cottura, del tipo di preparazione che stiamo facendo, può essere conveniente togliere il coperchio oppure metterlo. Per esempio, la pasta, no? Bollire l'acqua della pasta, si è visto che bollire l'acqua, portarla a ebollizione con il coperchio fa risparmiare tempo, perché prevale proprio l'aumento di temperatura all'interno, non si evita la dispersione del calore nell'ambiente, prevale sull'aumento di pressione e si è visto che si possono risparmiare anche 4-5 minuti sulla stessa quantità ma di acqua. Ma quando butto la pasta tolgo il coperchio, naturalmente. Assolutamente sì. Ma i le cuochi... verdure in padella, copro o sì. scopro? Perché posso allora, in qualche... col coperchio si mantengono le virtù nutritive, risparmio i condimenti, faccio una cottura più salutare sì. oppure... Allora, diciamo che beh, dal punto di vista nutritivo la presenza del coperchio non è davvero così determinante, perché stiamo proprio a guardare un po' il pelo nell'uovo. Piuttosto a proposito di proverbi. È vero, eccolo qua. No, la cosa può essere invece interessante dal punto di vista della riuscita gastronomica, perché per esempio se io penso alle verdure verdi, no, che lo sono per la clorofilla, durante la cottura si sviluppano degli acidi organici che è meglio se se ne vanno via col vapore, perché tendono a fare scurire proprio la clorofilla. Quindi per quindi mantenere il verde brillante delle verdure, via il coperchio. Esatto. Invece se io cuocio cavolfiori, verdure bianche, no? Sì. Allora vale esattamente l'opposto, perché lì se riesco a evitare il contatto con l'ossigeno che tende a farle ingrigire, a farle scurire, è meglio. E allora in questo caso il vapore stesso mi fa un po' da camera, come dire, isolante rispetto all'aria fuori. Diciamo che è proprio da questo punto di vista, dalla riuscita gastronomica, che dipende un po' la decisione se di tenerlo o no, meno, perché dottor Donegani, come dice il proverbio, anche l'occhio vuole la sua parte. Grazie al dottor Donegani per essere stato con noi, buona giornata. Coperchio senza coperchio, pentole, pentoline. Professore, adesso tocca andare a mangiare anche noi. Direi di sì. Perché? È il momento giusto. Grazie al professor Morricone per essere stato con noi. Grazie a Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica. A Laura Vanossi, come sempre, preziosissima in redazione. Buona domenica a tutti. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6:15, quasi per preparare la colazione. Mi raccomando, ricordate il re. Buona giornata e buona domenica da Nicoletta.